Le scuole elementari sono vecchie, erano all'inizio secolo, per cui avevano della storia, insomma, anche le piante che c'erano intorno erano vecchissime, insomma, artigli vecchissimi. E le scuole, materne invece avevano una storia, era stato comune, sede municipale, insomma, poi è stata un'abitazione privata, insomma, è stata anche qui un sacco di storie. Chi è del paese, insomma, come devo dire, si è visto tirare via un pezzo di una delle persone. Insomma. Il tema delle scuole a Camposanto è un tema, insomma, ecco sentito, perché sì, appunto, ci siamo visti abbattere, ecco, le scuole in cui hanno studiato, ecco, generazioni, ecco, di camposantesi, ed è pesante vedere le macerie della scuola in cui tu hai studiato, o anzi, ancora peggio, vedere a un certo punto il vuoto. Sai che sorgerà qualcosa, ecco, di nuovo in quei posti lì, ma vedere quelle macerie, quello spazio vuoto è pesante anche da un punto di vista emotivo. Non parliamo delle scuole, appunto, perché quante volte siete... Le abbiamo detto che le abbiamo demolite, ma le abbiamo demolite vuote. Sì. Vuote vuole dire tutto. Sì. Tutto, non c'era neanche un cartellone dentro. Addirittura la campanella abbiamo tolto per ricordo. Erano proprio vuote. Lì c'erano proprio dei volontari. Lì, con eserciti di volontari, a svuotare le scuole, i vigili del fuoco e i ragazzi della rete Loyola, sulla materna a luglio subito, perché quella era da subito inagibile con la prima scossa. Il 29 le ha dato un altro colpo ancora più significativo, quindi quella era da demolire subito ed è stata demolita nell'estate.